Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Chiara Coricelli, da oltre 70 anni olio e ricette tramandate in famiglia fino al web. Di Anna Marino. La mia vita è praticamente rappresentata da un filo d'olio che percorre tutte le fasi della mia esistenza, cioè dalla famiglia al lavoro alla casa. L'olio è il fil rouge che lega ogni fase. Condisce la vita con il lavoro, come in un unico piatto. Questa è l'immagine della scelta di essere sempre in prima linea di Chiara Coricelli, terza generazione della famiglia dell'olio, con una storia di 77 anni. Era il 1939 quando l'olio extravergine di oliva Pietro Coricelli nasceva a Spoleto, nel cuore dell'Umbria. Da questa terra di ulivi, l'export dell'azienda, una delle più antiche olearie in Europa, arriva oggi in oltre 110 paesi nel mondo, dal Nord America al Giappone, a Taiwan, fino in Cina. I quattro fratelli Pietro, Marco, Lorenzo e Chiara sono tutti nipoti del fondatore e insieme oggi hanno in mano le redini dell'azienda. Un'azienda in cui tradizione e tecnologia, lavoro e vita familiare si mescolano da sempre. Era il 1939. Mio nonno aveva iniziato una collaborazione con uno zio, sempre nel mondo dell'alimentare, e aveva sviluppato questa passione per l'olio, perché comunque era di origine contadina, aveva i suoi olivi, era partito da una terra che è l'Umbria, che insomma è ricca nel settore oleario, e aveva sviluppato la passione per l'olio buono. È andato un po' in conflitto con quelli che erano i principi dell'epoca, insomma c'era poco controllo, e lui aveva deciso di fare un olio che fosse buono. E per farlo buono decise di mettersi in proprio, accollandosi chiaramente i rischi d'impresa. Non aveva grandi fondi, c'era la guerra, insomma, lo fece comunque, e con la scelta però di metterci nome e cognome. Cioè, perché non solo il cognome? Molti brand sono rappresentati da un cognome. Lui ci volle mettere anche il nome. Perché? Perché quello sono io, e quel prodotto deve rappresentare il mio modo di fare e quello che secondo me è giusto nella formulazione di un prodotto salutare, rappresentativo. È un simbolo l'olio extravergine, e da qui nasce Pietro Coricelli. E anche Chiara Coricelli mette il suo nome e il suo volto a garanzia e a servizio non solo dei clienti. Così è nata la webserie di 28 puntate I racconti di Chiara. Spazia dalle ricette ai viaggi, dal giardinaggio ai consigli di bellezza a base di olio d'oliva. Protagonista è Chiara Coricelli, mamma, moglie e imprenditrice, alle prese con la vita di tutti i giorni. Un salto nel tempo rispetto alle difficoltà delle stagioni e i ritmi lenti dei primi tempi dell'azienda, in cui per raggiungere i clienti bisognava muoversi di persona. Le difficoltà innanzitutto anche geografiche, comunque l'Umbria è una terra meravigliosa ma non proprio ben collegata, e se oggi che è il 2016 abbiamo già difficoltà di spostamenti, diciamo così, per viabilità, negli anni 40 possiamo immaginare quanto non fosse facile poter arrivare magari nelle Marche per andare a portare i prodotti. Quindi questa era la difficoltà maggiore che mio nonno, con una serie poi di amici che sono diventati collaboratori, è riuscito a superare, e partendo la mattina molto presto con la sua macchina carica di fustini d'olio andava a fare la vendita al dettaglio, che era poi l'elemento di forza di quegli anni prima dell'arrivo della grande distribuzione. Il passaggio generazionale è stato fondamentale per uscire dai confini dell'Umbria e rivolgersi al mondo, ma per Chiara Coricelli e la sua famiglia è necessario partire dalle radici e dal fondatore. Un elemento interessante di mio nonno: lui era molto saggio. Sarà che poi io me lo ricordo come nonno, quindi per me era proprio la figura saggia per eccellenza. Ma anche chi ha collaborato con lui e ancora è in azienda dice sempre: facciamo come diceva Sor Pietro, perché veniva chiamato Sor Pietro, dormiamoci sopra prima di una scelta difficile. Non improvvisiamo, dormiamoci sopra di fronte alle provocazioni e vedrai che il giorno dopo trovi la strada giusta con razionalità. Questo è ricorrente, ce la ritroviamo sempre, quindi possiamo dire che nonno, o meglio Sor Pietro, ancora in azienda, ben vigile e presente. Una ricetta che ha segnato l'ingresso di Chiara Coricelli in azienda, come anche il passaggio generazionale degli altri tre fratelli maggiori. Nata a Spoleto, dopo gli studi superiori si trasferisce a Roma, dove si laurea alla Sapienza in comunicazione d'impresa. Dopo un'esperienza lavorativa negli Stati Uniti, in una società di merchandising, Chiara rientra in Italia e insieme ai fratelli imprime una spinta internazionale. Io mi sono differenziata perché, primo, sono l'unica donna della mia famiglia e quindi ho detto no, mi devo mettere alla prova, non mi va di arrivare e iniziare a lavorare, mi devo legittimare. Perché si fa presto ad entrare in un'azienda perché ha lo stesso cognome dell'azienda stessa. E quindi ho fatto questa esperienza all'estero, sono stata a New York, mi sono trovata il mio lavoro, un settore tra l'altro completamente diverso. Sai, sei un nessuno e vuoi arrivare a fine mese con le tue forze. E dopo un anno sono entrata in azienda con l'interesse e la consapevolezza che volevo fare quello. Perché comunque nasci nel mondo dell'olio, è la tua passione, lo conosci, lo vivi. Però c'è una fase nella crescita in cui quasi sei stanco, cioè arrivi ai 24-25 anni che già sai, sembra che sai tutto. E quindi ho voluto aspettare di avere quella convinzione e quindi sono entrata in azienda a 25 anni con la forza di un ciclone. E alla fine c'è un'unica parola che riassume il passaggio generazionale, la tenuta nonostante le crisi e lo sbarco all'estero. La ricetta è quella dell'unione, perché l'unione, quindi la forza dell'azienda, è quella che ti permette di dormirci sopra e trovare la soluzione migliore. Ed è grazie a questo che siamo andati avanti, non so, negli anni passati c'era la crisi dei consumi, ok, guardiamo all'export, e oggi l'export per noi conta un 70% del fatturato. Ma la ricetta da sempre funziona perché, racconta Chiara Coricelli, abbraccia anche i dipendenti in un'azienda che non ha mai separato vita e lavoro. C'era molto più respiro, c'erano per dire le 2 ore di pausa pranzo perché si andava a fare il pisolino dopo il pranzo, poi permetteva alle signore di andare a casa a preparare il pranzo ai mariti e di tornare a lavorare. E non so, ricordo io, ma ricordano anche tutti i collaboratori, i momenti estivi di relax in cui nonno faceva fare la pausa gelato ai dipendenti e quindi portava arrivava con le buste di gelato dopo la siesta per far fare la merenda, che con il ritmo di oggi sembrano, no, veramente momenti da sogno, che non si ha neanche il tempo magari per un caffè. Però questa era un po' la caratteristica, il fatto di riuscire a ricreare momenti molto familiari e molto intimi nonostante, no, il contesto lavorativo. Quindi l'azienda è nata e vissuta come una casa, tanto che la prima sede era proprio sotto la casa. Poi la dimensione è cresciuta e quindi ci siamo dovuti spostare in una zona più di periferia, ma l'oleficio Pietro Coricelli è nato al piano terra della casa di mio nonno, nel cortile dove si giocava. Poi arrivava il camion, caricava l'olio, era un tutt'uno. Si sentono, non so, le segretarie storiche che raccontano di mia mamma che magari sgridava uno dei figli e contestualmente tu parlavi al telefono con un fornitore. Insomma, è stato un intreccio da sempre indissolubile: casa, famiglia, lavoro. Quello che valeva una volta può valere anche adesso. E infatti il welfare aziendale, inventato dal nonno Pietro Coricelli, oggi si è trasformato, ma ha lo stesso effetto. Un volano per la produttività, perché in azienda non si dimentica la vita, il tempo libero e neppure il clima aziendale. Da noi c'è un compleanno, si festeggia tutti insieme, quindi c'è la pausa caffè alle 10:30, si fa il rinfresco tutti insieme, si brinda al festeggiato, o il venerdì pomeriggio si fa l'aperitivo. Ci sono quegli appuntamenti ricorrenti, l'happy hour del venerdì è qualcosa di immancabile, che stacchiamo la spina tutti quanti, alle 5:30 si fa l'aperitivo e si può dire finita la settimana. Dalla storia dell'azienda Pietro Coricelli, raccontata dalla nipote Chiara anche online, alla storia di Subito.it, qui invece nata sul web per raggiungere i clienti sul web soltanto. Una startup con un modello di business testato all'estero e trasferito e impiantato in Italia sull'onda della second hand economy, e cioè il mercato degli oggetti di seconda mano, che colpisce per le prospettive di un mercato ancora non saturo, il plus della gratuità del servizio, il vantaggio di avere lo sviluppo tutto in casa. Ci racconta il presente e il futuro della startup Melanie Libraro, general manager di Subito.it. Il momento iniziale è stato a Milano nel 2007, dove Subito è stata fondata in Italia da un'idea di successo del gruppo Schibsted scandinavo, e è stata messa poi in mano a degli imprenditori locali che facessero crescere questo business che aveva avuto successo in altri paesi. Quindi nasce in questo modo in Italia, quindi ormai ci avviciniamo quasi ai 10 anni di Subito. L'idea è quella antichissima degli annunci di oggetti usati messi in vendita su qualsiasi tipo di categoria, quindi a partire da quelle più scontate delle case in affitto, in vendita, le auto, ma anche la bicicletta, il tapirulano, insomma qualsiasi oggetto di qualsiasi categoria si possa pensare. Quindi quello che una volta era il cartaceo di seconda mano o porta cortese diventa digitale. Permette l'incontro tra domanda e offerta, diventa quasi il social networking degli oggetti usati, si inserisce un annuncio gratuitamente per vendere qualcosa e poi si viene contattati da potenziali compratori. E se vuoi dare ancora più visibilità al tuo annuncio, allora puoi pagare qualcosina in più, 1 euro, 2 euro, 3 euro a seconda. Nell'impresa gestire, come dire, il personale bene è un win-win. Per me una delle cose più importanti è essere molto sensibile ai bisogni dei dipendenti, e quindi abbiamo il concierge in azienda, i massaggi in azienda o anche servizi di welfare come lo yoga e Pilates. Noi abbiamo lavorato molto sulla collaborazione, sulla comunicazione tra dipendenti, tra team. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione più lunga, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete anche scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.